Prego vecchia signorina, guardi che bei gerani loro si affidano sicuri alle cure delle mie mani e alle pupille bianche spente che ho ricevuto impegno da che sono residente in questo oscuro regno. Ma il rosso san tempo di garofani in estate mi ricordavano nel vento il fuoco di granate. Mi scusi se non sbaglio, lei mi chiedeva della guerra, a proposito ha veduto i lilla nella mia serra. Assiero sulla linea gotica, 16ª divisione, un giovane ufficiale alla testa d'un plotone, da nemici biondini con le spalle strette, guardi che ciclamini, che adorabili violette. Questi fragili prodigi di beltà corrompere il virgolto della nostra civiltà. Basta pochi giardinieri troppo pigri o rammolliti per stroncare le verminose orde di parassiti che infestano il nostro amato occidente a milioni. Cosa stavo dicendo? Sì, gli italiani, oh, gli italiani, brava gente, semplici, cordiali. Le donne, come diceva quel tenente a letto, sanno essere eccezionali. Quei bambini con i loro occhi lucidi e scuri come amore, quegli occhi da uccellini che sentono vicino il passo lento del cacciatore. Prego mi perdoni, ma la viva fiamma del ricordo più non brucia. Sant'Anna, mi pare, mi diceva, era il nome del paese, ma che vuole in fondo, siamo stati qualche mese. Ricordo però bene la vampa dell'estate, quel grido incandescente come d'adunata che dalla campagna nuda e grigia come un cadavere levava nell'azzurro i crocchi di papaveri e quelle marce all'alba nel fresco dei castagni, all'andatura spavalda da verdure di mascagni, quando filtrando tra i rami il primo sole balenava sulla canna della mia machine pistole. Ma lei parla d'eccidio, massacro, strage, esecuzioni. Non capisco il suo fastidio se io do alle cose il loro nome. Che una rosa è una rosa, una rosa è una cerbera, è una cerbera. Per noi quella cosa si chiamava guerra. Guerra contro criminali e nemici della patria, turbatori della pace sociale, volgari ladri. Ma si sa, il nemico cambia veste, ma i metodi sono gli stessi, che per combattere terroristi bisogna togliere l'acqua ai pesci. Ma se lei volesse spegnere un istante quel suo registratore, disse con aria assente il vecchio giardiniere, potrei dirle che colore ha la notte del perdono, così forse capirà chi sono. Sono il passo di stivale davanti al cossoglio, è l'abbaiare di un cane, è un crepitare di mitraglia. Io sono il fumo acre che brucia nei polmoni e l'odore del sangue che s'appiccica alle mani. Sono il giallo di denti che mordono l'ultimo respiro e il bianco d'occhi spenti inchiodati a un cielo nero. Sono nube sui tornanti, un volo sparso di colombe, l'ultimo abbraccio degli amanti, un tetro sibilo di bombe. Ma mi guardi ora, sono forse diverso da lei, coi suoi fantasmi, le sue paure, il mutuo, gli zingari e il picoin, come per i boccioli di Ionea il meccanismo è sempre semplice, basta una goccia di sangue a far d'un pavido un carnefice, e Dio nella sua onnipotenza può continuare a farsi i fatti suoi, tanto di lui possiamo fare senza. Che il popolo conosce.